lo tenevano su. Cataste di Tex vicino a letto, l'anima profonda del Sibu. Un pianoforte che suonava bene, solo se pensava a lei. Ed una giacca di pelle scura per difendersi. A volte poi spariva giorni interi per posti dove chissà, e ritornava con quegli occhi scuri e il cuore di tenebra. Ma il grande spirito gridò da dentro e come un vento soffiò: non lascerò seppellire questo cuore, domani me ne andrò. Oggi non è un buon giorno per morire, vado lontano per vivere. Ci sarà pure un tipi per dormire e un calumet della pace per me. Parlava il tempo di 5.000 lire cabina che ormai non c'è più. Tornava a casa, si stendeva e scriveva pensieri e lunghe lettere. Amore, questa vita è troppo breve per sciuparla così. Domani romperò queste catene, pace per me. Oggi è un buon padre che scrive poesie e porta dentro sé qualcosa da scrivere e raccontare, per dire a tutti che oggi non è un buon giorno per morire, vado lontano per vivere. Ci sarà pure un tipi per dormire e un calumet della pace per me.